Eccoci, giovedì 6 settembre del 2012, 87.900, la modulazione di frequenza alle 14 in punto. Siamo all'appuntamento con Visionari, il consueto appuntamento appunto di cinema, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Anche questa settimana uno speciale della 69esima mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia, in corso dal 28 agosto fino all'8 settembre. Tutte le informazioni le trovate per quanto riguarda la scaletta di oggi sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, Visionari, gli ospiti della puntata, le uscite in sala al cinema domani venerdì 7 settembre e poi le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia. Per quanto riguarda i film sul piccolo schermo della settimana c'è la televisione, l'elenco dei film in televisione e poi gli altri appuntamenti invece della settimana su tutto il territorio nazionale e poi il link per riascoltare la puntata precedente e in fondo anche quelle di tutto il 2012. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, mentre per inviarci sms in diretta il numero è 342 357 4357. Ben ritrovata Costanza Quatriglio, ci sei? Sì, eccomi, ciao, bentrovati. Il momento non era opportuno? No, va benissimo, è che qui è sempre un ping pong, flipper, cose così. Allora, con te per parlare di Terra Matta lo presenterai oggi a Venezia. Intanto come sta andando questo tuo arrivo a Venezia? Ma guarda, sono molto contenta perché il film, insomma, se ne parla bene. Cioè, chi l'ha visto viene rapitizzato, come abbiamo coniato questo termine per chi ama Vincenzo Rabito e comincia a parlare come Vincenzo Rabito. Insomma, dai, va benissimo, è molto bello anche il festival, questa scelta di mettere tanti documentari, diciamo, fa sì, onore sì allo sforzo degli ultimi anni del nostro cinema, quello che abbiamo cercato di costruire rispetto di quello che ci circonda e quindi insomma siamo molto contenti, dai. Bene, è un piacere averti anche perché ogni tanto sei sulle nostre frequenze, sei nostra ospite. Allora Costanza, alla base di Terra Matta io ci vedo due Vincenzi, raccontaci un po' del tuo punto di vista, insomma. Beh, ci sono due Vincenzi, ma ce ne sono anche tanti, tanti, tanti, perché lui dice sempre io, parla di sé, anche in terza persona a volte, in realtà parla di noi, sì. Quindi è un sé reiterato e che si diventa moltitudine, diventa comunità. Diciamo che Vincenzo Rabito attraversa il Novecento, io oggi dicevo, è tutta un'altra storia la sua. Cioè è la storia che noi non troviamo nei libri di storia e quel contro così canto della storiografia ufficiale che ci racconta pagine anche molto scomode è veritiere. Lui ci dice di essere diventato fascista quando c'era da essere fascista, di aver cambiato bandiera quando c'era da cambiare bandiera, l'opportunismo degli italiani, lui ci fa capire anche di noi oggi perché in qualche modo l'Italia non si è mai liberata da un certo tipo di paternalismo, dal considerare i diritti dei favori e via discorrendo. Quindi in questo senso il narratore Vincenzo Rabito, che attraversa, diciamo, le congiunture del Novecento con il sangue e il sudore, ci dice anche assolutamente che parlando di sé parla anche di noi. Costanza, su cosa hai lavorato in questa rispetto alla trasposizione dalla pagina allo schermo? Ho lavorato su vari piani narrativi. Innanzitutto, diciamo, ho assunto il punto di vista del narratore Vincenzo Rabito, quindi ho affidato la lettura del libro a Roberto Nobile, all'attore Roberto Nobile, e lui che ci conduce nelle pieghe della storia e delle storie che racconta. Ho voluto non illustrare il libro, ma evocarlo attraverso l'uso improprio, dico io, delle immagini appartenenti alla storiografia ufficiale per immagini, per cui ho preso l'archivio dell'Istituto Luce e l'ho fatto diventare un'altra cosa, proprio piegandolo alla soggettività di questo ultimo, che nulla aveva a che fare con una visione di regime. cioè era ovviamente dentro un sistema catapultato, diciamo, sempre nei grandi eventi collettivi dalla storia, ma lui era diverso, stava proprio dentro, era un ultimo, no? Quindi usando gli archivi e luce li ho resi più pop, anche proprio visivamente, colorandoli, eccetera, ma al di là di questo, a questi archivi ho attribuito un altro senso attraverso una riappropriazione di un punto di vista che era un punto di vista assolutamente diverso dal punto di vista, diciamo, di regime per cui sono nati gli archivi stessi. E poi ho lavorato sull'oggi, ho attraversato i paesaggi come li attraversava lui, quindi ho filmato i luoghi, diciamo, di appartenenza di Vincenzo Rabito, che sono dei luoghi prettamente siciliani ma anche assolutamente universali, che sono queste lunghe strade come li percorreva lui, creando sempre dei link tra il passato e il presente, cercando quindi di trovare in oggi le tracce di ieri. Prima parlavi del fatto che gli italiani non si sono mai liberati di un certo paternalismo. Ecco, quali altre caratteristiche descrivono questo popolo, sia nelle pagine di Vincenzo che nella tua interpretazione? Ma le caratteristiche di fatto sono un certo tipo di maschilismo, il fatto che lui, vabbè, è automatico, nel senso che la grande storia è una storia al maschile, questo lo sappiamo tutti. Le donne nella storia di Vincenzo Rabito entrano con il dopoguerra, con il diritto al voto, quando lui dice la Democrazia Cristiana andava in giro dicendo che se vincevano i comunisti nelle chiese avrebbero fatto le feste da ballo, come le chiama lui, no? E quindi, siccome le donne erano ignoranti, ci credevano, quindi il comunismo non vinceva. Lui, diciamo, è molto tranchant questo. Quindi, innanzitutto ci insegna anche un punto di vista proprio sul mondo che è basato, appunto, cioè, è maschile, l'abbiamo già detto. Poi il paternalismo, l'abbiamo già detto, ci insegna anche la cosiddetta arte d'arrangiarsi, che non è soltanto una frase fatta, ma è esattamente quella ostinazione alla sopravvivenza, quella ostinazione a superare la propria condizione, che è poi il carattere, diciamo, identità, cioè che fa l'identità di Vincenzo Rabito, lo fa diventare, diciamo, un uomo sì italiano ma anche soltanto universale. Cioè lui è un eroe e un antieroe. Eroe perché è l'eroe delle avventure cavalleresche, che si mette in scena, eccetera, però è anche un antieroe perché è un pavido. Senti, dicevo all'inizio dei due Vincenzi perché lo scorso anno qui a Roma Vincenzo Pirrotta ha portato Terra Matta, lo spettacolo teatrale. Ecco, tra teatro, cinema e letteratura esce fuori secondo te un quadro complesso e complessivo di una nazione? Guarda, io penso di sì, ma penso che sarà infinita la scoperta di Terra Matta, che non si fermerà neanche qui, nel senso che questo testo è sconvolgente per la sua capacità di penetrare la realtà che racconta, veicolando anche dei significati ulteriori, quindi dei sottotesti, anche involontariamente, che sono veramente tanti. Per cui assolutamente penso che questa scoperta del sottotesto continuamente ci porterà ancora, magari superato appunto finito il film, guardando il film ci verranno in mente anche altre cose, rileggendo il libro ancora altre, perché è veramente una miniera d'oro. Costanza, dopo Venezia che ne sarà di Terra Matta? Terra Matta, diciamo, verrà catapultato in alcune sale cinematografiche, in circuiti, si spera, giusti, diffusi, non so ancora bene quando e come, cioè quando sì, lo so, tra settembre e ottobre, il come non lo so perché Cinecittà Luce distribuisce, quindi saranno loro a poter rispondere di questa, a questa domanda. E poi, vabbè, io già sto affrontando un video che è una, insomma, sarà un lavoro molto complesso, pieno di extra, di cose speciali belle, importanti sul mondo di Rabito, cioè ci fanno capire il mondo di Rabito. Bene, allora alla vigilia dell'uscita in sala avremo modo di risentirci se vuoi. Assolutamente sì, mi fa un sacco piacere, questo è, mi piace stare da voi, mi sento un po' a casa. Un abbraccio, a presto allora, buona Venezia. Grazie, ciao. Costanza Quatriglio, regista del documentario Terra Matta, presentato oggi pomeriggio al Lido di Venezia nell'ambito della mostra d'arte cinematografica. Ben ritrovato Mario Canale, in questo caso co-regista del documentario La versione di Mario. Eccoci qui. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene. Allora, mi fa particolarmente piacere perché tanto noi ci siamo già sentiti in altre occasioni, ma poi questa volta per parlare di un personaggio, Mario Monicelli, che era amico di questa radio, era un ascoltatore, interveniva spesso e volentieri in questa trasmissione. E non, poi non so se sai, ma Ottavia, una delle sue figlie, sì, con noi faceva la trasmissione di fiabe lette da attori e attrici qui in radio. Allora, la versione di Mario, cominciamo dal titolo, Mario. Ma guarda, il titolo l'abbiamo scelto perché in realtà, tra tanti titoli possibili, era quello che si adattava meglio al documentario, nel senso che abbiamo usato, anche facendo 5 diversi episodi, raccontando 5 aspetti, cercando di raccontare 5 aspetti che ci sembravano significativi, in realtà chi parla per moltissimo tempo è soprattutto Mario Monicelli, e quindi poi l'idea del titolo è venuta da questo, perché c'è anche proprio delle sue versioni della vita, anche contraddette da altri testimoni, però quella è la sua versione dei fatti, di come lui si è rapportato a certi temi, a certi aspetti della sua vita. Come mai un progetto collettivo? Ma guarda, inizialmente sia io che Anna Rosa, che abitualmente facciamo assieme dei documentari di cinema, avevamo un'idea e l'avevamo proposto a una televisione. Poi Vilma Labbate, che con cui io andavo a scuola, quindi ci conosciamo veramente da una vita, mi ha detto: guarda, noi abbiamo fatto un'intervista lunghissima, molto particolare, a Mario, ci piacerebbe fare un documentario, tu hai dei materiali? Ho detto sì, guarda, però anche noi lo stiamo per fare, ma perché non proviamo a fare una cosa assieme? E il tentativo è stato un po' quello. Intanto siamo tutte persone che si conoscono da minimo da più di 30 anni, abbiamo fatto molte cose assieme di vario tipo, insomma, dalla politica al lavoro, insomma, quindi ci conosciamo un po'. E poi l'idea era quella di cercare di ricreare un clima un po' da anni 60, in cui molte persone lavoravano assieme. Sì, sì. In realtà è molto più difficile di quanto non si pensi oggi fare delle cose assieme, intanto perché il cinema, il lavoro ci ha abituato a tutti essere un po' autori di noi stessi, quindi nel bene o nel male questo è un po' un limite, mentre quando lavorava Monicelli, che era un grandissimo autore, però non avevano questo tipo di approccio alla realtà. Quindi da questo poi l'idea di fare un documentario in 5 episodi, in 5 capitoli. Ecco, proprio per chi ci ascolta, questa suddivisione in capitoli, come è strutturata e quali sono questi capitoli, questi temi portanti? Guarda, ecco, abbiamo scelto di raccontare appunto degli aspetti che fra i tanti che ci sembrano significativi, quindi abbiamo raccontato il mestiere, il suo rapporto col lavoro, poi abbiamo raccontato le origini, cioè da dove viene Monicelli, come è nata questa sua passione per il cinema, questo suo rapporto, e quindi è un episodio che si svolge, diciamo, tutto attorno a Viareggio e all'adolescenza di Monicelli. Mentre il mestiere racconta proprio com'era lui, usando molto i set, usando molto testimonianze di chi ha lavorato con lui, com'era lui e si chiama mestiere perché lui poi si definiva un mestierante. morte, fondamentalmente. Poi c'è un capitolo che si chiama Confidenze, e Confidenze invece è proprio il suo rapporto, il privato, come si comportava lui con le donne, compagne, amiche, collaboratrici, come era lui nella vita privata. Invece c'è un altro capitolo dedicato alla commedia, e che è, diciamo, la parte più importante del suo lavoro, e l'ultimo capitolo invece riguarda la politica, quindi il suo atteggiamento fino agli ultimi giorni, il suo rapporto con la politica, con la società. Secondo me sono tutti molto interessanti, alcuni, diciamo, servono più a raccontare com'era, anche per chi non lo conosceva bene, insomma, pensando soprattutto a chi oggi si accosta al cinema, e quindi raccontare le capacità professionali di uno dei più grandi maestri del Novecento, insomma, anche se non reputato tale certe volte. Ecco, proprio a questo... Ah, scusami, niente. No, niente, scusa, è un po' lungo. E proprio a questo proposito, Mario, con che immagine ti eri avvicinato a questo viaggio e cosa hai scoperto invece realizzandolo? Ma guarda, io mi sono avvicinato molto, io ho girato parecchi set di Monicelli, insomma, e il mio primo set, e ne ho girati circa 500 di set cinematografici, il mio primo set però è stato il Marchese del Grillo. Io ho iniziato esattamente una visita sul set del Marchese del Grillo, di cui dovevo fare un promo per la Gaumont, che c'era da poco tempo e aveva importato questo tipo di lavorazione nel cinema italiano, prima non si usava, e quindi i miei primi due set sono stati che erano in contemporanea, usavano quasi le stesse scenografie, il Marchese del Grillo e il Mondo Nuovo di Scola. E quindi questo è stato il mio primo approccio e anche il mio innamoramento per il cinema. Quindi ho cercato di raccontare in questo episodio del mestiere, perché poi l'ho fatto io, di raccontare proprio com'era lui. E la scoperta vera, in realtà è la semplicità di Mario Monicelli, una semplicità assolutamente incredibile, che viene chiaramente dall'aver fatto tutto, dal ciacchista, dal portare i caffè in poi, insomma. E la scoperta viene proprio, una è quella di come lui usava il set, qual era lo sguardo, dove, in che posizione si metteva lui, che era quella dello spettatore, assolutamente. Quindi c'era un rapporto preciso di come metti la macchina, come fai l'inquadratura. E l'altra scoperta molto interessante è il suo rapporto con Steno, le due versioni del rapporto, dell'amicizia, della separazione, la versione della famiglia di Steno, di Carlo Vanzina, che è stato anche per anni aiuto regista di Monicelli, e che è nato appunto, è stato praticamente il figlioccio di Monicelli, e la versione di Mario, che è veramente molto diversa e molto questo, ma e poi guarda, in ogni capitolo c'è una scoperta, o più di una. Sì. Ecco, procedendo su questo cammino, mi viene da chiederti anche qual è il suo lascito più importante. Ma il suo lascito più importante, io non riesco a separare la sua professione dal suo rapporto col sociale, il rapporto con gli altri. Penso che sia stato uno degli ultimi esponenti di maestri, perché non saprei definirlo altrimenti, che riuscivano a mettere nel lavoro anche, a non separare mai il lavoro, la professione, i soldi, le case, le donne a separarlo poi da come era il suo rapporto con la vita, con gli altri, con, nel suo caso specifico, con chi lavorava, con i più deboli. Monicelli è sempre stato così, da quando ha iniziato all'ultimo giorno, in cui c'è anche la sua scelta proprio di il rigore estremo di una vita che non ha mai avuto cedimenti. Mario, dove e quando sarà possibile vederlo? Guarda, io penso che insomma si vedrà sulla Rai, che è stato uno dei coproduttori. Noi faremo, penso, per l'anniversario della sua morte, vorremmo organizzare una serata a Roma importante, ricreando quel clima che c'era, appunto, non so se ti ricordi quella trasmissione Ring con Nanni Moretti. Sì, sì, vagamente. Esatto, sì. E volevamo ricreare una cosa di questo genere, anche perché uscirà anche in DVD, edito da Luce, uscirà in DVD e negli extra del DVD c'è una bellissima intervista fatta sul set di Cari Fottutissimi Amici, un extra che si chiama Il cinema è sempre in crisi, in cui Monicelli parla della crisi del cinema che è sempre esistita e del suo rapporto con i giovani. Quindi volevamo utilizzarla proprio per un appunto per rilanciare queste cose che diceva lui, che erano secondo me interessantissime. Bene Mario, allora io ti abbraccio e ti do appuntamento a presto. Poi vi faremo sapere quando ci sarà questa serata. Io spero che si riesca a organizzare. Quindi avremo concorrenza. Sarebbe un giusto omaggio. Certo, avremo modo quindi anche di riparlarne qui da questi microfoni. Va bene, ti ringrazio. Ciao, a presto Mario, ciao. Mario Canale, co-regista del documentario La versione di Mario. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, uno speciale quest'oggi sulla 69esima mostra del cinema di Venezia. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per inviarci degli sms in diretta il numero è 342-357-4357. Continuiamo. Parliamo ora invece della mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici di Cinecittà che sono sbarcati sul Lido. La scorsa settimana avevamo sentito il Teatro Valle Occupato che era lì a dar manforte a questa lotta. Manuela, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto c'è stato un incontro con il direttore della Mostra del Cinema che si è espresso anche pubblicamente sulla questione, sulla vostra questione di Cinecittà. Poi c'è stato un incontro, invece, un incontro con i 100 autori, altre strutture, e volevamo chiederti un po' in generale come sta andando questa trasferta veneziana. Allora, guarda, l'incontro con il direttore della mostra c'è stato il 29 e il Barbera ci aveva promesso che il 4, il giorno che noi abbiamo incontrato gli autori nell'incontro che è stato fatto proprio sul futuro di Cinecittà, aveva promesso appunto di raggiungerci e di partecipare a questo incontro, questo diciamo dibattito, questo momento di comunicazione generale, diciamo, delle persone di questo settore. E in realtà il Barbera non si è presentato, noi non l'abbiamo visto, quindi si sarà pure espresso il 29, il giorno dell'inaugurazione, a favore dei lavoratori di Cinecittà, dicendo io sto con i lavoratori, così come riportano i giornali, però non ha mantenuto poi fede al 4 settembre, che aveva promesso appunto avrebbe partecipato e comunque si sarebbe incontrato con questa delegazione di lavoratori. Questo così per precisazione, certo, perché naturalmente certo. Poi è facile fare delle dichiarazioni, poi quando si deve magari agire e scendere in campo si ha sicuramente un po' più difficoltà. E per quanto riguarda invece l'incontro con gli autori, diciamo che c'è stato, per noi è stato molto proficuo, perché i lavoratori, insomma, di Cinecittà hanno fatto una proposta, la proposta di mettere in stand-by questo progetto, quindi tutte queste procedure di dismissione di attività, di affitto e di vendita di lavoratori, per mettersi intorno a un tavolo e discutere su un vero progetto, diciamo, di rilancio del sito, delle attività di questo sito. Gli autori hanno ieri fatto un comunicato in cui dicono, insomma, di essere soddisfatti di questo incontro, insomma, di questo approccio che c'è stato, e che parteciperebbero volentieri a un tavolo per discutere appunto nel merito, visto che sono sicuramente attori, no? Gli attori ideali, voglio dire, fanno parte di questo settore, lo fanno il cinema, attori, autori, produttori, tutti quelli che vogliono comunque partecipare a questa costruzione, voglio dire, di un nuovo progetto. Abbiamo lanciato questa proposta e gli autori si sono ritenuti soddisfatti e sono pronti a sedersi insieme a noi per discutere di tutto questo, e adesso vediamo, insomma, ci sembra che l'azienda non sia molto disponibile a questo e vuole probabilmente fare un tavolo prettamente sindacale. Noi non siamo disposti a fare un tavolo sindacale in senso stretto, comunque, come dire, noi, la controparte e le sole organizzazioni sindacali, perché riteniamo che noi non possiamo andare a discutere per una vertenza importante come quella di Cinecittà se i numeri debbano essere 80 come trasferimenti piuttosto che 20 o piuttosto che 40. Questo è un bene comune, è un bene di tutti, che va rilanciato, è un'industria importante, è un pezzo di cultura, per cui non può avere, diciamo, il respiro di una trattativa puramente sindacale. Mm-hmm. E per questo noi continueremo, diciamo, la nostra battaglia affinché questo sia, insomma. Noi siamo aperti a qualsiasi confronto, ovviamente, perché è nel nostro interesse, insomma, però difendendo quelle che sono le prerogative di questa vertenza, cioè che sia una vertenza di carattere ben diverso da quello, diciamo, strettamente sindacale, perché insomma si tratta di un bene, voglio dire, nazionale, di un bene comune, e quindi non può essere trattato a livello numerico, 80 sì e 20 no, insomma, come lavoratori. Per cui, ecco, aspettiamo di vedere, insomma, se è possibile fare un tavolo serio in cui ci siano vari soggetti a discutere del tutto. Senti, questa mobilitazione unitaria con il Teatro Valle Occupato? Diciamo che noi siamo in contatto continuo, i ragazzi del Valle sono dalla nostra, chiaramente, perché noi siamo tra le poche voci, purtroppo ancora adesso, che cercano di preservare quella che è la cultura, quello che è possibile renda i cittadini, voglio dire, di un paese veramente liberi, conoscitori, diciamo, delle cose, perché insomma la cultura permette, insomma, sicuramente un'elevazione, una conoscenza, una comunicazione diversa, e probabilmente questa nostra politica, queste forze politiche che sono latitanti, probabilmente, come sempre succede, hanno paura, preferiscono più cittadini interessati all'intrattenimento che non alla cultura, per cui sono magari da un'altra parte rispetto a noi. Mm-hmm. Teatro Valle è un esempio, voglio dire, no? Di voce importante, perché si è riappropriato di un bene del paese, lo sta gestendo, voglio dire, effettivamente come bene comune, è un esempio importante, e quindi chiaramente non poteva, secondo me, e come poi è stato, non appoggiare questa nostra vertenza, insomma. Certo. Senti, il vostro calendario quali appuntamenti pubblici prevede prossimamente? Ma il nostro calendario, adesso noi stiamo aspettando, adesso non abbiamo, diciamo, date propriamente ufficiali, però insomma stiamo aspettando di un tavolo che probabilmente forse verrà allestito, diciamo, con il prefetto di Roma, e vediamo un attimo, insomma, come è possibile, diciamo, farne un punto di partenza, diciamo, a livello proprio di costituzione dei soggetti che potrebbero partecipare, insomma, perché per noi questo è importante, insomma, le persone che si siederanno a quel tavolo e che cosa andranno a discutere, e quindi noi saremmo molto attenti, voglio dire, a questo, perché è la cosa che ci interessa di più, naturalmente, perché è chiaro che sono 2 mesi che noi siamo a stipendio zero e dunque abbiamo tutta la voglia chiaramente di risolvere questa questione e siamo pronti a trattare, però certo non a trattare a ribasso, insomma. Certo. Senti, intanto comunque si può venire a portarvi solidarietà a Cinecittà, chiaramente. Noi siamo sempre lì al presidio, abbiamo chiesto l'aiuto, anche abbiamo fatto aperto una sottoscrizione, chiaramente, perché poi ci dobbiamo anche autofinanziare, certo. Insomma, no? Siamo a un 80% di lavoratori che è lì e che quindi a turnazione, insomma, anche dormono nelle tende lì, e per cui è per noi, insomma, anche, voglio dire, il banale, oltre che stare a stipendio zero, ma anche il banale andare avanti, voglio dire, giorno per giorno, è chiaramente un problema, sì. Per cui accettiamo e stiamo diffondendo questa sottoscrizione affinché, insomma, ci arrivi qualche aiuto da parte della società pensante, della società, insomma, ancora viva, di quella che dovrebbe essere il punto di partenza per il rinnovamento, insomma, per la ripresa di questo paese, che altrimenti diventerà sempre più barbaro e insomma non è sicuramente un preludio a un cambiamento in positivo del paese, se la gente non si risveglia e non capisce. Ecco, tanto per dire, adesso voglio dire anche questa, perché effettivamente è una cosa che veramente ci ha molto colpito. A Venezia, il giorno dell'inaugurazione, i ragazzi non sono riusciti ad arrivare proprio sotto il red carpet, ma insomma lì c'erano tantissimi attori italiani che hanno sfilato, noi eravamo lì a 100 metri, 150 metri, bastava solo che uno di loro facesse l'atto di scendere da quel red carpet o comunque, insomma, di passare lì da questi lavoratori che, insomma, si sono fatti il viaggio autofinanziandosi per arrivare a Venezia, per gridare, insomma, che Cinecittà è un bene comune e che sta morendo, ma nessuno di loro, voglio dire, è sceso ed è andato incontro a questi lavoratori. Io credo che questa sia una cosa grave, una mm-hmm. cosa, perché, insomma, loro fanno parte di questo mondo, hanno preferito, insomma, il mondo ovattato e sbrilluccicante, diciamo, no? della fama e della notorietà, piuttosto che scendere in quella che è la società reale, la società, certo, vera, certo, di quei lavoratori che fanno il cinema, che fanno il loro cinema e che hanno permesso loro anche di essere arrivati al punto in cui sono arrivati. Senti, Manuela, in chiusura diamo anche, se ci sono, riferimenti internet per avere maggiori informazioni sulla vostra mobilitazione. Guarda, noi siamo su Facebook, abbiamo un sito che si chiama Faldiamo Cinecittà. Benissimo. E quindi lì si può trovare di tutto sulle prossimi appuntamenti, speriamo che ce ne siano di quelli importanti, sulla sottoscrizione, su tutto quello che c'è stato, sui video di Venezia, sulla mobilitazione in forza delle forze dell'ordine, perché avvertite dall'azienda che ci eravamo spostati con i centri sociali, insomma c'erano 4-5 ragazzi che ballano la murga e che hanno già fatto qualche spettacolo lì davanti agli studios, davanti al nostro presidio, e sono state allertate le questure di Roma e di Venezia, perché insomma sembrava che dovesse succedere chissà che cosa. Noi, il nostro gruppo, ci aveva davanti, insomma, i poliziotti con i caschi, la celere dietro, come se fossimo avere effettivamente dei terroristi. Insomma, quando si parla della civiltà di un paese, bisognerebbe, insomma, fare un po' più di attenzione, perché diciamo che questo paese è in mano a dei poteri, insomma, che hanno sostituito la politica, e questo non è non va bene. Senti, Manuela, io ti abbraccio e appuntamento a presto, alla prossima. Va bene, grazie mille. Ok, continuiamo a seguirvi. A presto. Ciao. A presto, grazie, ciao. Questo per quanto riguarda la mobilitazione dei lavoratori e le lavoratrici di Cinecittà. In collegamento con Marco Segato, regista del documentario L'uomo che amava il cinema, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, buongiorno. Allora, chi è quest'uomo? Allora, l'uomo del titolo, insomma, come dice il titolo, era un uomo che si è occupato per tutta la vita di cinema, insomma, era un critico ma non ha mai scritto nulla, era un programmatore, un organizzatore, un collezionista, insomma, era tante cose insieme, ma al suo tempo nessuna di queste, insomma. Diciamo che prima di tutto è stato, parliamo di Piero Tortolina, un padovano che ha fondato negli anni 70 un cineclub proprio a Padova, si chiamava Cinema 1, che è stato uno dei primi cineclub, insomma, che ha lanciato quella stagione gloriosa a cavallo tra gli anni 70, insomma, gli anni 80, che ha alimentato buona parte, insomma, della cinefilia di tanti spettatori in tutta Italia. Finita quell'esperienza si è messo a raccogliere i film che non c'erano nelle cineteche italiane, e per farlo, insomma, ha cercato nelle cantine allagate, nei magazzini, da gente fallita che non aveva restituito le copie per mandarle al macero, fino agli Stati Uniti, dove aveva dei corrieri che gli portavano i film che cercava, insomma. Quindi, diciamo, un racconto di un personaggio si è occupato di cinema anche in maniera molto avventurosa, insomma, il confine tra legalità e illegalità, insomma, ecco. Come mai la scelta di realizzarne un ritratto? Beh, diciamo che ho avuto la fortuna di conoscere un po' di anni fa, Piero Tortolini è morto nel 2007, l'avevo conosciuto 4-5 anni prima e avevo avuto modo di frequentarlo, di parlare di cinema con lui, e dietro questa sua divisa d'ordinanza, che era quella di un, come dire, un padovano bene, professore, è stato professore di scuola superiore per tutta la vita, insomma, si nascondeva una passione, una storia che ritenevo abbastanza interessante, sia dal punto di vista meramente cinematografico, insomma, che poi da quello emotivo personale. E avevamo cominciato a parlarne proprio nell'anno poi della sua morte, e poi si è ammalato e non ho fatto nulla, insomma, però mi era rimasta quella cosa lì come una spina piantata da qualche parte, che poi con un po' di distanza, insomma, mi è riaffiorata, e allora abbiamo ripreso in mano, dico bello, perché anche la Iole Film, che è la casa di produzione padovana che ha prodotto il film, insomma, molti dei produttori o delle persone coinvolte ha conosciuto Piero, che per chi è di Padova, ma in Veneto in generale, è stato una sorta di nome tutelare, insomma. Marco, che entità ha questo archivio che ha messo su, e poi che ne sarà? Beh, in realtà l'archivio conteneva più di 1000 film. La sua collezione è significativa perché non era uno che andava in un magazzino e comprava quello che c'era, insomma, era uno che andava a scegliere film per film, e quindi, cioè, un film che cercava lo cercava anche per 1, 2, 3, 4 anni, fino a quando non riusciva a individuarlo. E soprattutto non era un collezionista come uno se lo può immaginare, che prende il film, lo mette in un sacchetto e lo nasconde da qualche parte. Era uno che prendeva i film e li distribuiva, ovviamente in maniera clandestina, ma prendeva i film e poi li faceva girare in tutti i cineclub italiani, dal Movie Club a Torino, dall'Angelo Azzurra Bologna, dall'Officina a Roma, insomma, per cui tutti i cineclub di quella stagione avevano in Piero una sorta di distributore e quindi anche programmatore occulto, insomma, che era semplicemente conosciuto come anche l'agente 049 dal numero del prefisso. Spesso, per dirsi, lui quando mandava i film nei cineclub cambiava anche il titolo, proprio per rimanere totalmente anonimo, insomma, per essere irrintracciabile. Questa collezione di più di 1000 titoli adesso è conservata alla Cineteca di Bologna, dove lui l'ha venduta a metà degli anni 90, quando ha capito un po' che la stagione dei cineclub era terminata, e soprattutto perché in una bellissima intervista che gli ha fatto Bertolucci, che entra poi nel nostro film come repertorio, a un certo punto dice: io mi sono reso conto che facendoli vedere questi film in parte li distruggevo, perché ogni proiezione, essendo copie uniche, finivano con dei tagli, con rovinare la pellicola, per cui a un certo punto ho capito che se volevo salvarli avrei dovuto, come dire, farne delle copie, ma io in quanto privato non avevo i mezzi, per cui la Cineteca di Bologna, che è anche un meraviglioso laboratorio, che è quello dell'immagine ritrovata, può restaurare il film, farsene quante copie vuole, distribuirle, conservarle e quant'altro, insomma, per cui oggi c'è questa ala del magazzino, insomma, che è una specie di hangar di pellicole interamente dedicata a Tortolino con tutti i suoi film. Che quindi verranno recuperati in qualche modo e saranno fruibili, immagino. In parte lo sono già stati, alcuni film che lui ha trovato ad esempio erano copie uniche, lui ha trovato un film di Curtis che era l'unica copia esistente al mondo, che è stata restaurata dagli americani, insomma, per anni era l'unica copia ad esempio di un film muto del 16 che si chiama Christus, l'aveva trovata lui in un magazzino allagato di Padova, insomma, no? Aveva fatto dei ritrovamenti importanti, poi oggi diciamo che quel tipo di cinema è stato anche un po' superato, nel senso che le sue copie erano in 16, per cui ad esempio dei musical americani ci sono delle pellicole in condizioni migliori da cui partire per il restauro. Quindi diciamo che rimangono lì conservate, alcune volte vengono proiettate, ma con la definitiva, come dire, scomparsa del 16 mm, che era il formato che veniva utilizzato dai cineclub, insomma, perché è più economico, più facile da trasportare, anche questo tipo di collezione in parte ha subito un colpo, se vogliamo. Però è interessante, perché poi Tortolino era un amante del cinema americano classico, quello dei musical, per dire, di Fred Astaire o Bugsy Barclay o del noir di Bogart o James Cagney, insomma, aveva dei gusti cinematografici molto molto particolari. Senti, visto che abbiamo parlato di uno storico cineclub di Padova, qual è invece adesso la situazione a Padova rispetto al cinema di fruizione collettiva? Beh, in realtà non molto diversa da quella di tante altre città, insomma, diciamo che forse non ci sono, non si è trasformato come può essere stato a Bologna, ad esempio, il vecchio cineclub è diventata la cineteca, o comunque parte delle persone che ci lavoravano sono confluite poi nella cineteca, o come è successo a Pordenone, dove c'è la cineteca Gemona o il cinema Zero, oppure sono diventati dei festival, come a Torino il cinema Giovani nasce dallo storico cineclub. Insomma, quindi diciamo che quell'esperienza del cineclub in qualche maniera si è riciclata o ricapitalizzata in cineteche, festival, addirittura ad esempio nella Rai, Ghezzi, che è uno dei personaggi intervistati, che era molto amico di Piero, nasce nei cineclub di Genova, insomma, no? E quindi questo tipo di esperienza a Padova in realtà è una città che, come Piero stesso diceva, aveva dei limiti culturali enormi, per cui diciamo che non c'è un'esperienza forte, né di festival, se vogliamo, né di cineteca, non c'è nemmeno una mediateca, per dire. C'è un'università molto importante, la prima in Italia che ha avuto due cattedre di storia del cinema, di cui c'è Gian Piero Brunetta, che è uno dei più importanti storici italiani, insomma, per cui c'è molto cinema, si produce anche molto cinema. Quest'anno, ad esempio, al Festival di Venezia, oltre al mio, c'erano altri due lavori padovani, insomma, quello di Carlo Mazzacurati, sì, e della Giraluci, insomma, sulle Brigate Rosse a Padova, insomma, negli anni 70. Per cui, insomma, da un punto di vista meramente di produzione e comunque di fruizione c'è un bel circuito. Speriamo che poi, insomma, col tempo questa cosa anche prenda magari una forma più istituzionale. Marco, senti, L'uomo che amava il cinema avrà una futura distribuzione in sala, passaggi televisivi, uscita in home video? Che cosa? Sì, diciamo che il Festival di Venezia è arrivato un po' in corsa, quando noi l'abbiamo presentato non era ancora finito, ma grazie alla selezione abbiamo fatto tutto velocemente, senza poi pensare o pianificare una distribuzione più strutturata. Di sicuro faremo il circuito dei festival, quelli italiani, insomma, che ci porterà via qualche mese, e poi l'idea è proprio quello di riproporlo anche in quello che rimane oggi di quei cineclub che Piero ha contribuito a far nascere, quindi mi piacerebbe anche di percorrere una sorta di circuito, insomma, di questa idea di cinema e vedere cosa ne rimane. E poi sì, c'è la possibilità di un passaggio televisivo, anche di questo ne abbiamo discusso a Venezia, e con la Cineteca di Bologna c'è la volontà di fare poi un DVD all'interno della loro catena di distribuzione, quindi in qualche maniera c'è già una sorta di approccio distributivo, insomma, che renderà il film visibile sicuramente. Bene, Marco, io ti abbraccio, un saluto e un a risentirci per le prossime novità. Grazie a voi e a presto. A presto, ciao caro. Salve. Marco Segato, regista del documentario L'uomo che amava il cinema. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Vi ripeto i nostri contatti, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per inviarci invece sms in diretta il numero è 342-357-4357. Continuiamo con i nostri ospiti. Bene, è con noi Ambra Kreiger, responsabile del progetto All Cinema. Ambra, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Come stai? Ma guarda, direi benissimo, molto stanca, perché quando si lavora a questi ritmi, insomma, c'è sempre una grande tensione e anche adrenalina. Però posso dirti che sono molto felice, siamo tutti molto felici dei risultati che stiamo ottenendo, e quindi insomma penso che abbiamo quasi un piede in paradiso con i nuovi Cinema Paradiso. Senti, allora, il progetto è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, raccontacelo un po' per sommi capi. Sì, allora, noi da circa un anno stiamo lavorando per monitoraggio e una riconnotazione dei vecchi cinema perduti, che possono un po' considerarsi anche nell'immaginario collettivo come i nuovi Cinema Paradiso del capolavoro di Tornatore. Tra l'altro Giuseppe Tornatore è un po' sulla nostra linea intellettuale, ci ha sostenuto fin dal primo momento per questo progetto, e quindi abbiamo pensato di rendere possibile e concreto un progetto che inizialmente sembrava più virtuoso e immaginario che reale, partendo da una regione che è il Trentino, e campionandola totalmente, quindi con i dati che avevamo a disposizione e che abbiamo anche poi verificato sul campo, siamo andati on the road, io e Roberta Bonazza, che è l'altra founder del progetto, alla ricerca di questi cinema perduti, che insomma sono riemersi e sono ben 35. Senti, una mappatura a livello nazionale la state quindi portando avanti? Sì. Noi stiamo lavorando in questi termini, nel senso che abbiamo fatto questa prima regione come una campionatura dell'Italia, sì. E stiamo già lavorando sui network e sui gruppi di lavoro che costituiremo strada facendo. Abbiamo già implementato alcune regioni che sono la Lombardia, il Veneto e in parte anche l'Emilia Romagna, con la quale siamo in contatto. Poi pensiamo anche di arrivare nel Lazio, perché sappiamo benissimo dai dati ANEC e da fonti ministeriali che veramente il Lazio è una regione straordinaria, e su questo tema ci riserverà delle sorprese immense. Senti, dopo la mappatura qual è il passo successivo? Il passo successivo è quello di intanto fare un network di saperi, quindi sì, riuscire a mettere insieme tutte le istituzioni, chiaramente scientifiche, e le istituzioni di grande pregio italiane e internazionali, perché peraltro abbiamo anche scoperto strada facendo che questo tema è un tema internazionale, addirittura si può parlare mondiale, perché Spike Lee, che abbiamo intervistato a Venezia, ci ha parlato delle sue monostrade di New York, per farti un esempio, quindi sì. C'è questa attenzione da parte del mondo cinema, del circus del cinema, ma anche dei lettori, degli internauti che continuano a segnalarci mappature dell'Italia, del cinema e anche internazionali, per cui vediamo cinema dell'America perduti, cinema dell'India, cinema del Pakistan, ci è arrivato un po' di tutto. Mm-hmm. Detto questo, un altro obiettivo è di fare un network nazionale veramente di saperi, e quindi di ricostruire un pavimento che ad oggi è frammentato. Ogni regione ha fatto un po' il suo, per farti capire, di mettere un po' insieme questo mosaico, e da questo mosaico ripartire con l'individuazione di 20 sale italiane che hanno queste caratteristiche architettoniche, insomma, di grande bellezza, dove poi le andremo a implementare con le esigenze del nuovo spettatore, che comunque è uno spettatore che fruisce di linguaggi altri, no? Quindi, sì, sì. Per cui parliamo di tecnologie, di tech, di nuove innovazioni. Quindi, per capirci, l'involucro del vecchio cinema, e quindi questo scheletro straordinario, architettonico, che fa parte un po' della memoria, è subordinato però a un grande prodotto tecnologico. Quindi una fusione, diciamo, tra la possibilità di una visione collettiva di un prodotto cinematografico legata alle nuove tecnologie, penso al digitale e alla rete, ad esempio. Assolutamente sono indispensabili, perché la funzione del cinema è cambiata, e il cinema comunque ricordiamoci che è un mercato, quindi non è né una Spoon River e né una Marcord, noi non ci siamo posti in termini né polemici rispetto per esempio ai multisala o alle altre forme di intrattenimento, e nemmeno in modo, come dire, decostruttivo, cioè ci poniamo invece cercando di capire quali sono le esigenze dello spettatore, che sono comunque esigenze di carattere tecnologico. Per esempio vediamo tutte le nuove produzioni, quindi lo spettatore è cambiato, non è più cinefilo, oppure lo è in parte, però non è la massa non è cinefila, e non è nemmeno, come dire, de sé, per cui stiamo ragionando su un tipo di spettatore che possa essere, come dire, virtuoso, ma anche al passo con i tempi in questi luoghi che sono magnifici. Senti, in questo, ecco, la proposta a livello culturale come si esprimerà? Che scelte attuerete? Allora, da un punto di vista culturale stiamo ragionando in più campi, nel senso che siccome il progetto è molto articolato, posso anche dirti che ci affidiamo un po' a un modello anglosassone, a un modello americano, almeno di pensiero, nel senso che pensiamo più a una startup o cinema che la costituiremo, e questo ci permetterà di riconnotarci con un nuovo modo di fare cultura. Cioè pensiamo che la cultura possa essere anche collegata alla parola impresa, no? Un po' tutti hanno paura a fare questo accostamento, perché si pensa che la cultura non sia business, invece così non è, perché abbiamo dimostrazioni per esempio di cinema, se vuoi ti posso fare anche un esempio, il cinema antico di Milano, che non è un cinema, però è un cinema, come dire, di grande qualità, da 20 anni, che è coordinato da Lionello Cerri, che è il direttore dell'ANEC, e il presidente della società di produzione Lumière. Da 20 anni è proprio uno delle sale, perché all'interno ci sono 3 sale, delle sale che funziona di più, cioè che ha un numero di pubblico sempre crescente, quindi noi pensiamo di dare cultura che possa essere espressa sia con rassegne di un certo spessore. Pensavamo anche per esempio a un riconnotamento, a una riconnotazione di pellicole perdute, sì. Perché sappiamo benissimo che tante pellicole non escono tratto dai circuiti, magari stanno fuori solo un giorno, oppure finiscono direttamente nelle mediateche di Cinecittà, piuttosto che alla Cineteca di Bologna, per farti un esempio, e sono pellicole che invece potrebbero avere un'altra vita e perché no, un'altra riconnotazione dentro i nostri vecchi cinema. Senti, in questa ricerca rispetto allo stato delle monosale, ecco, qual è stato il loro destino? Molte abbandonate, molte trasformate in altro? Ma guarda, tanto ti faccio complimenti per la domanda, perché è molto calzante. Diciamo che noi abbiamo lavorato su questi dati ministeriali in parte, per la Regione Trentino invece ci siamo avvalsi di una ricerca di questo ricercatore storico Guglielmo Parisani, che ci ha aiutato a individuare queste sale, perché il problema è che i dati non coincidono, cioè ci sono dei dati sulle chiusure delle sale e ci sono delle sale altre che sono le nostre ovviamente, cioè quelle dormienti, quelle trasformate, quelle scomparse, che costituiscono questo immenso patrimonio ma che non hanno più di fatto un censimento. Quindi l'andare a ricercarlo è stata un po' una scoperta, perché erano magari anche cinema chiusi con serrature a doppia mandata, per farti un esempio, e dentro abbiamo trovato di tutto, da come dire, i pianoforti, dalle cabine di proiezione perfettamente integre, per esempio nel cinema di Levico è tutto come era esattamente 20 anni fa quando ha chiuso, addirittura nel bar, per farti un esempio, c'erano ancora le bevande, cioè l'ultimo grande ritrovo di chi è andato al cinema è rimasto tutto lì, le tassine, per esempio mi ha colpito perché c'era la Recuario, che era un'acqua che adesso non si beve più, e quindi insomma abbiamo ritrovato esattamente tutto quello che era rimasto come 20 anni fa. Senti, per avere maggiori informazioni sul vostro progetto ci sono dei riferimenti internet? Sì, abbiamo fatto un sito condiviso che adesso si sta integrando, diventerà operativo dal giorno del nostro evento che faremo in Trentino, che è una piattaforma di un mese, dove ci sarà appunto come ospite d'onore Giuseppe Tornatore, e questo sito esordirà proprio il 15 settembre in tutte le sue funzioni. Tra l'altro sarà implementato da tutta la parte network e social, quindi ci sarà Twitter, ci sarà Facebook, cioè in maniera tale che riusciremo a raccogliere anche tutti quegli utenti che già sappiamo che esistono e che ci riconnotano nel mondo e anche in Italia con la parola o cinema, prima di noi, questo l'hanno fatto prima di noi, quindi li andiamo a ripescare tutti e li rimettiamo tutti dentro e pensiamo di creare un grande contenitore che possa comunque mettere le persone in relazione su questo tema e quindi che possano anche dare un grande contributo per quello che è proprio la ricostruzione di un patrimonio che altrimenti andrebbe completamente perduto. Bene Ambra, allora io ti saluto e ti do un appuntamento per le prossime tappe del vostro percorso. Assolutamente, possiamo, guarda, io ci sono, quindi benissimo. Sono con voi e ci sono anche per i prossimi appuntamenti, quindi facciamo insieme questo viaggio on the road, magari scegliamo anche dei cinema che possono essere, come dire, dei riferimenti per i nostri lettori, benissimo. I nostri ascoltatori, scusami, quindi se loro avranno anche il piacere di segnalarceli, perché no, noi ci siamo e andiamo a coprirli insieme. Bene, un abbraccio e a presto, ciao Ambra. Grazie mille, ciao, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, arrivederci. Ambra Kreigero, responsabile del progetto Old Cinema. Bene, ci allontaniamo un attimo da Venezia, ma restiamo in ambito documentario perché abbiamo con noi Stefano Consiglio, regista del lavoro Il Centro, il consumo al tempo della crisi, che sarà programmato all'interno di Doc 3 il 12 settembre, quindi mercoledì prossimo. Stefano, intanto ben ritrovato. Grazie anche a voi, ben ritrovati anche voi. Come stai? Bene, bene. Senti, a proposito di questo, volevo dire che comunque ci sarà un'anteprima. Ah, bene. Il 10 di settembre, sì, alla FNAC del centro commerciale Porta di Roma, che è poi il centro commerciale dove noi abbiamo girato insieme a Francesco Dal Bosco, non l'ho fatto da solo questo film, e insomma niente, l'abbiamo girato proprio là. Il sottotitolo, I consumi al tempo della crisi, non so da dove è uscito, sì, da qualche parte a un certo punto, ma insomma non è, diciamo, è un film molto sul presente più che sull'attualità, se c'è una differenza tra queste due parole, in parte c'è, insomma. Ecco, è proprio come abbiamo scritto nella presentazione, siamo stati là 3 settimane e incontrando le persone che passavano di lì, gli chiedevamo molto semplicemente proprio cosa pensavano della loro vita, del loro lavoro, dei loro sogni, dei loro desideri, delle loro paure, se credevano in Dio, una specie di ritratto dell'Italia oggi, un'istantanea d'Italia oggi vista da un luogo di molto consumo, sintomatico, insomma, diciamo che, sì, che in Italia non è così, è abbastanza una novità, ecco, diciamo, il centro commerciale. Allora, quali sono le basi che ti hanno portato a scegliere questo argomento e questo indirizzo, insomma? Ma guarda, è difficile da dire, con Francesco noi avevamo già lavorato insieme tanti anni prima, avevamo fatto insieme la versione filmata del romanzo in versi di Attilio Bertolucci, La camera da letto, ci siamo proprio così incontrati e volevamo fare una cosa insieme, qualcosa proprio sul presente, allora abbiamo messo insieme proprio l'idea di cercare di avvicinare le persone con una, come dire, con uno sguardo un po' vergine, senza pensieri in un certo senso. Proprio abbiamo cercato proprio di aprire gli occhi, no? Uh-huh. Sai quando si dice apri gli occhi per dire fai attenzione? Sì, sì, proprio sì, per sì, guardare. Ecco, è un luogo in cui potessimo incontrare queste persone così che fosse molto significativo, per cui, come dire, perché queste persone così diverse stanno insieme, perché è il luogo che le fa stare insieme. E poi, a dirla veramente tutta, io e Francesco tanti anni fa insieme ad altri amici abbiamo fatto una cosa che si chiamava Ladri di Cinema, e qua rendiamo anche un piccolo omaggio al grande e scomparso Renato Nicolini, perché l'avevamo fatta appunto quando lui era assessore alla cultura, che erano degli incontri con dei grandi registi, da Michael Cimino, Elia Kazan, Bertolucci, Andrei Schweide, eccetera, eccetera, eccetera, in cui chiedevamo loro di confessare, tra virgolette, no, in pubblico quali erano dei film oppure dei filoni o dei registi ai quali si erano ispirati, da lì il nome Ladri di Cinema. Quindi noi insomma siamo un po' dei ladri di cinema da sempre e ci siamo molto ispirati a un fantastico film di Louis Malle che ha fatto nel 1974, si chiama Place de la République, perché anche lui si è messo 10 giorni a Piazza della Repubblica con una piccola troupe raccontando le persone che passavano di lì, ma appunto chiedendogli perché non si domandava mai le persone se sono felici. La felicità è importante, siamo partiti da là e poi abbiamo pensato al luogo, alla modernità, eccetera, eccetera, eccetera. Stefano, quante persone avete intervistato? Guarda, credo che abbiamo intervistato una sessantina, settantina di persone, poi in un lungo premontaggio eravamo scesi a una ventina eccetera e alla fine nel film ci sono, sono 15 incontri con una serie di persone, saranno non lo so esattamente, 15 incontri, alcune sono singole persone, altri erano tre, altri erano da soli. Mm-hmm. Immagino insomma un po' di trasversalità per quanto riguarda età, sesso. Assolutamente sì, assolutamente sì. E la cosa molto interessante è che ci siamo trovati di fronte molto spesso a delle cose sorprendenti. Insomma, noi a un certo punto questo film lo volevamo fare in 3 zone diverse, una al nord, una al centro e una al sud. Siamo andati anche a fare i sopralluoghi in tutti questi posti. Poi abbiamo cominciato a fare, come dire, delle prove di girato a Roma, perché insomma era la cosa più comoda, e ci siamo resi conto che non solo non serviva andare in 3 situazioni diverse, perché poi alla fine erano molto simili, ma era anche, come dire, controproducente, perché dovevamo rimanere molto tempo nello stesso posto. Mm-hmm. E quindi siamo rimasti 3 settimane, che sono tanti, 21 giorni di girato per un film di questo genere, però è stato veramente molto importante, perché dovevamo, come dire, diventare una parte noi stessi di quel luogo. E quando avvicinavamo le persone, stavamo sempre a occhi aperti, veramente con gli occhi, no? E così ci sembrava di captare qualcosa in tante delle persone che abbiamo fermato. Sai, non è facile andare a una persona e chiedergli, sì. Ma lei è felice, la sua vita, cosa ne pensa della sua vita? Eppure abbiamo avuto un riscontro molto forte e soprattutto molto vero. In questo senso è uscito un bellissimo articolo di Fabio Fersetti sul Messaggero a Ferragosto, in cui, perché lui aveva visto il film e ne ha voluto parlare, e in cui evidentemente, come dire, queste persone che noi diciamo percepivano veramente il nostro interesse, come dire, profondo, no? Per la loro esistenza, e quindi si entrava in un rapporto, ecco, devo dire, piuttosto intenso. Senti, e come definiresti questo mosaico che avete composto? Cosa emerge? Fersetti dice che siccome oggi manca totalmente un centro nelle persone, questo film paradossalmente si chiama proprio Il Centro, cercandolo in qualche posto che alcuni definiscono un luogo, e in parte è vero, e altri invece definiscono un iperluogo. Ormai è diventato veramente un po' come la piazza di una volta. Come lo definirei? Boh, non lo so, un film sulle persone, un film sulla vita di oggi, un possibile film su una possibile vita di oggi. E nel complessivamente, qual è il quadro che ti sei trovato davanti? In che senso? Nelle risposte, insomma, se c'è un filo conduttore, qualcosa, allora, che accomuna un po' tutte le persone. La cosa che mi aspettavo era una totale sfiducia nella politica, veramente un po' impressionante. Poi mi aspettavo una serie di paure, eppure la cosa che ho trovato moltissimo è ancora una grande forza vitale nelle persone, capacità di reagire. E poi, devo dire la verità, mi ha molto molto colpito la differenza tra gli uomini e le donne, a qualunque livello, dico sociale, politico, culturale, economico. Queste donne c'hanno proprio, loro sanno sempre perché stanno al mondo, dopo lo sanno. Bello, e gli uomini molto meno. Guarda, non ho mai fatto questi discorsi perché non mi piace, però in questo film ha molto molto molto colpito questa cosa, proprio la forza dirompente proprio del femminile, delle donne, ti ripeto, di qualunque età, di qualunque genere. E poi vedrete. No, volevo dire un'altra cosa, appunto, abbiamo avuto un sacco di sorprese, quando avvicinavamo queste persone, naturalmente noi non sapevamo nulla, no? Però così c'era qualcosa che ci piaceva, che ci interessava, e dietro ognuna di queste delle storie, erano dei romanzi, c'erano tre ragazzi fantastici così che parlavano, e a un certo punto esce fuori che erano tre testimoni di Geova. Allora a un certo punto proprio c'è come una luce, no, che illumina tutto, che tu non sapevi, però è come se sentissimo il lumicino da qualche parte. Ma questo è un esempio, poi ce ne sono un altro, un signore, un panziano con un orecchino, un bambino, che a un certo punto scopriamo appunto, che io pensavo che era il nonno, ho fatto pure una gaffa, dice no, suo padre, ed era un romano sessantenne che perduto d'amore per una marocchina che aveva conosciuto anni prima, 15 anni prima, e per amore è diventato musulmano. Dico, ma l'hai posato moltissimo? Dice, ma sai, io pure quando ero cristiano non è che proprio ci credessi. Dico, quindi l'ha fatto proprio per amore? Esatto. E quindi si può, per amore si può diventare qualunque cosa, anche musulmani, perché no? Ecco, proprio queste scoperte, sì, veramente, sì, dietro, sì, ognuna, sì, di queste persone, era veramente molto, molto toccante, ecco. Ecco, e rispetto, ecco, adesso ho avuto un'illuminazione rispetto a questi due esempi mai fatto, la diatriba tra essere e avere, che riflesso hanno nelle persone che avete? Ma guarda, è molto buffo, c'è una specie di inconsapevolezza, perché tutti stanno appunto in questo regno che era il regno delle merci, sì, e tutti giustamente si lamentavano per questa crisi, dicendo che non potevano comprare nulla, no? E al tempo stesso però stavano tutti nel regno delle merci. E allora non riesci veramente un po' più a capire come, che appunto, se le merci comprare, non lo so, ma c'è molto da andare a guardare, a vedere, perché veramente è molto curioso. Ti ripeto, tutti parlavano di una crisi come se stessimo sull'orlo di un precipizio, e in effetti in parte è così, per larga parte così, al tempo stesso però stavano tutti quanti dentro al regno delle merci. Veramente è difficile capire come bisogna muoversi nel mondo di oggi, e naturalmente questo, come dire, per crea una situazione di disagio sociale dal punto di vista, però così visto da fuori, anche qualche cosa di molto interessante per capire dove stiamo andando, dove sta andando il mondo. Questo insomma è sempre vitale, no? Quando, certo, cerchi una strada e perché anche i personaggi stessi la cercano, capito? Anche se talvolta inconsapevolmente. Senti Stefano, allora ricordiamo queste due proiezioni, cioè la proiezione pubblica e poi la messa in onda. Beh, quella vera importante è la messa in onda, ovviamente, che è mercoledì 12 settembre alle ore 23:45 sulla meritoria Rai 3, all'interno del fantastico Doc 3, sì, che è il programma di Rai 3 dei documentari cosiddetti d'autore, da non confondere con Geo e Geo, tutte quelle cose lì che sono le belle cose, ma insomma i documentari d'autore li fa Doc 3. Senti, e prossimamente poi ci sarà qualche distribuzione, altro passaggio televisivo? Beh, adesso c'è il primo, poi vediamo. Poi cominciamo con l'inizio ancora del televisivo. Benissimo. E poi stiamo a vedere, poi ci siete voi che ne parlate, poi c'è, certo, stato, insomma, c'è, farà la sua strada anche questo, speriamo che faccia la sua strada anche questo nuovo film che appunto ho fatto insieme a Francesco Dal Bosco. Bene, Stefano, ti do appuntamento alla prossima, un abbraccio. Grazie ancora a voi perché seguite il mio lavoro così appassionatamente, affettuosamente, un abbraccio a voi tutti. Ciao, a presto. Ciao, grazie, ciao, ciao. Stefano Consiglio, regista del documentario Il Centro, il consumo al tempo della crisi. Torniamo ora a Venezia, ne parliamo con Alessandro Scillitani, regista del documentario Il risveglio del fiume segreto, il viaggio sul Po con Carlo Rumiz, che sarà in programma tra due giorni, l'8 settembre. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, sono qua, eccomi. Allora, sono qua già al Lido e tra un paio di giorni appunto ci sarà la presentazione in anteprima del film. Bene, ecco, quindi... Qui. un'anteprima. E, la prima cosa che mi viene in mente è che noi, trattando in particolar modo i documentari, già ci sono vari lavori su fiumi italiani, dal Lazio alla Toscana alla Lombardia, e in particolare sul Po già abbiamo sentito di altri lavori. Allora, come mai questo interesse per questi corsi d'acqua? Ma certo, intanto non solo ci sono c'è una letteratura cinematografica sul fiume Po grande, ma io stesso avevo già lavorato su questo, sull'argomento dell'acqua. È certamente un tema molto affascinante e interessante, proprio perché è chiaro che si presta a diversi sottoragionamenti, sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista del rapporto sociale con le persone. Una cosa che mi ha sempre colpito molto, frequentando il Po, perché io poi sono di Reggio Emilia, quindi ho la fortuna di vivere vicino a questo corso d'acqua, non proprio come altri che magari hanno proprio la possibilità di stare vicino agli argini, ma comunque insomma lo raggiungo molto velocemente. E diciamo che in effetti quello che mi ha sempre colpito è l'azzeramento delle distanze, laddove il mondo, diciamo, la nostra società tende a allontanarci, e magari si creano questi paradossi di condomini dove le persone non si conoscono perché sono condomini dormitorio. Quello che colpisce sul Po è che le persone si conoscono a distanze di chilometri, perché condividono la passione per qualcosa che ha a che fare molto con la natura, con l'amore per lo stare insieme, ecco, perché poi questo è un elemento fondamentale del fiume, sì, secondo me. Qual è il risveglio del fiume segreto? Il taglio che è stato dato a questo documentario è un taglio particolare, perché noi praticamente abbiamo attraversato tutto il fiume senza praticamente mai spostarci dal fiume. L'abbiamo navigato integralmente nei suoi 700 chilometri. E quindi lo sguardo è lo sguardo dal fiume, che è molto particolare, perché in effetti si scopre un mondo quasi incontaminato, selvaggio, cioè laddove il Po viene sempre vissuto come il luogo, diciamo, dell'inquinamento, il luogo dove l'uomo ha deturpato e dove non ci si può più andare, oppure addirittura il Po viene nominato chiaramente per le piene, no? Quindi ecco, invece attraversandolo dal punto di vista del fiume si scopre che in realtà è un mondo selvaggio a due passi dalla civiltà. Mm-hmm. E quindi questo aspetto è un altro aspetto che poi, come dicevo prima, accomuna le persone che lo amano, ma è abbastanza inedito, perché effettivamente sebbene nel film chiaramente non manchino gli incontri con i personaggi e con chi magari è già stato protagonista di altri documentari che hanno trattato questo argomento, però il centro e il protagonista è quasi la personificazione stessa del fiume. Mm-hmm. Questo è il taglio che è stato dato. Ecco, a questo riguardo, Alessandro, mi viene in mente ad esempio che rispetto all'inquinamento e al rapporto con la civiltà, ecco, nei passaggi nelle città, io adesso faccio l'esempio di Roma perché siamo qui e c'è il Tevere e c'è anche, ci sono degli argini che lo rendono quasi estraneo il fiume alla città. Ecco, mi sembra che ci sia all'interno delle aree metropolitane una separazione netta tra il fiume e la popolazione e l'architettura della città. Infatti, per esempio Torino, per carità, il fiume viene onorato all'interno della città, ma appena si arriva alla periferia, mi viene in mente Settimo Torinese, San Mauro, i luoghi, diciamo, a due passi effettivamente, comunque nel cuore, diciamo, dell'industrializzazione italiana, ecco che vediamo che appunto gli argini negano il fiume al punto che non è neanche possibile vederlo, e al punto che le persone che abitano lì manco ci sono mai state sul Po. E questa cosa sorprende molto, perché poi di contro, appunto, visitando, viaggiando dentro al fiume, Il paradosso è che a questo punto il fiume diventa uno spazio incontaminato nel cuore di metropoli, ecco. E questa cosa, sì, da una parte chiaramente è incredibile come l'uomo tenda a negare qualcosa che è la risorsa fondamentale per la sua vita. Mm-hmm. E quindi dall'altra, paradossalmente, in questo suo cercare di allontanarsi, voglio dire, un classico esempio che viene da fare sempre questo, che fino a poco tempo fa, fino a un secolo fa, esistevano carte fluviali che sono state sostituite di fatto dalle carte stradali, cioè di fatto tutte le città, per esempio penso a Bologna, che è vicina a casa mia, era inondata da canali, c'erano i percorsi da fare via fiume o via acqua per portare le merci, per trasportare persone e cose. Di fatto, se facciamo eccezione appunto proprio per Venezia, che è rimasta una perla incontaminata e cioè ferma nel tempo, di fatto questo rapporto con l'acqua si è andato nascondendo. Noi la imbottigliamo, ce la beviamo a casa l'acqua, ma ne usufruiamo diciamo in modo quotidiano, senza renderci conto che l'acqua appunto non passa più, o comunque la neghiamo dal passaggio delle nostre città. Mm-mm. Senti, che mi dici di Carlo Rumiz? Paolo Rumiz. Paolo Rumiz è un grandissimo scrittore, narratore, oltre che naturalmente viaggiatore e giornalista. Lui sono una grande e prestigiosa firma di Repubblica e del Piccolo di Trieste, ed è sicuramente la presenza di Paolo Rumiz è stata determinata, a parte che appunto tutto questo documentario è stato preceduto da una serie di articoli che sono stati scritti su Repubblica da lui, e quindi c'è questa parte narrativa che è una, diciamo, uno sguardo parallelo sullo stesso viaggio. E è chiaro che il suo sguardo e il suo taglio sono stati per me fondamentali per dare anche io un taglio, come dicevo prima, anche personale a questo documentario. È sicuramente molto bello riuscire a viaggiare con personalità, con uno sguardo così attento, poi da sempre all'Italia minore e alla riscoperta di valori che spesso sono molto importanti ma dimenticati dall'uomo, ecco. Magari tendiamo sempre a raccontare diciamo quello che emerge e mai quello che è sotto traccia, che spesso è molto più interessante, molto più bello, ma magari in televisione non va, ecco. Senti, facendo questo viaggio, Alessandro, secondo il tuo punto di vista, qual è la portata a livello naturalistico e simbolico di un corso d'acqua come un fiume? La portata, ma è chiaro che, non so se ho capito bene cosa mi stai chiedendo, ma di fatto io spero che effettivamente, vedendo questo documentario, leggendo gli articoli e i racconti di Paolo Rumiz, venga voglia poi di riscoprire questi territori, che sì, sono bellissimi proprio perché spesso regalano delle emozioni straordinarie, proprio perché appunto c'è un sacco di spazio incontaminato, di spazio dove è possibile scoprire comunque grandi momenti di natura. Cioè, è chiaro che la parte più affascinante, indubbiamente, per quanto riguarda il Po, è il Delta, lo sappiamo, che indubbiamente è anche quella più conosciuta da un punto di vista di chi, per quanto poi devo dire che il nostro viaggio non è stato così pieno di incontri, nel senso che sul Po ci sono parecchi pescatori, ci sono appunto quel piccolo grande mondo di cui parlavo prima, che di appassionati, di gente che lo frequenta, però poi, come dicevamo, essendo di fatto negato alle città, spesso appunto le persone che ci abitano un passo non l'hanno mai visto, comunque non l'hanno mai navigato. Quindi sì, sarebbe bello che effettivamente partisse la volontà di esplorarlo, di viaggiarlo, ecco, di viverlo, ecco, sì. Alessandro, che fruizione avrà il tuo documentario dopo Venezia? Il film verrà distribuito con Repubblica dal 12 di settembre, quindi avrà intanto questa distribuzione direttamente in DVD, quindi sarà possibile per le persone acquistarlo direttamente, ma poi noi faremo un tour sicuramente lungo le sponde del fiume per presentarlo, per restituire diciamo l'opera anche in un terreno anche inedito. Poi avrà delle distribuzioni diciamo come spesso capita per i documentari, insomma non andiamo ad avere una distribuzione ufficiale, ma comunque abbiamo già contattato diverse sale dove poi ufficialmente lo proietteremo, lo mostreremo. Diciamo che ci interessa anche molto sfruttare diciamo le moderne tecnologie per poterlo fruire anche in ambienti non convenzionali e in luoghi particolari e caratteristici diciamo del percorso fluviale. Bene, allora spero di risentirti presto, nel frattempo un abbraccio, un in bocca al lupo per dopodomani. Allora prestissimo e grazie di tutto. Ciao Alessandro. Ciao. Alessandro Scillitani, regista del documentario Il risveglio del fiume segreto, in viaggio sul Po con Paolo Rumiz. In programmazione l'8 settembre, dopodomani, a Venezia. In collegamento con Masbedo, regista del documentario Tralala, ci sei? Eccoci qua, buongiorno a tutti. Benvenuta. Benvenuto, ve lo do da solo ormai. No, in verità Masbedo siamo in due, allora però non possiamo parlare in due al telefono. Esatto. Nicolò Massazzi, Jacopo Vedogni, io sono Nicolò. Benissimo. Allora, cominciamo da questo strambo titolo. Sì, il titolo te lo racconto perché è nato assolutamente a caso, cioè eravamo in Islanda fin quando a un certo punto troviamo una Repubblica italiana, per il giornale Repubblica, lo troviamo abbandonato su un pullman. Allora a un certo punto l'apriamo e troviamo questo articolo meraviglioso, stato fatto su Céline, e l'articolo parlava appunto del suo grande amore per questa cagna morente, perciò la sua cagna che stava morendo, e a un certo punto lui, parlando di questa cagna, con una frase bellissima dice: io mi rendo conto che tu sei il vero amore e non sei soggetta al trallallà degli uomini, dove questo trallallà in verità rispecchia il nostro continuo bisogno di metterci su un sipario, no? Rispetto proprio alle nostre, come posso dire, alle nostre vicissitudini, la nostra esistenza deve essere sempre messa su un palcoscenico. Allora Céline ha giocato su queste parole, ci sembrano bellissime, l'idea che ci fosse un tralala, che ognuno di noi fosse un po', come dire, soggetto e condannato al tralala. Allora Niccolò, si parla di Islanda, cosa ha da dire l'Islanda? L'Islanda ha da dire tantissimo. L'Islanda è un grande amore per noi, siamo stati lì dal 2008, è un grande amore, tutti pensano che sia un grande amore perché sono delle bellissime cartoline, no, diciamo che l'Islanda è l'anticartolina, una natura primitiva, una natura scomoda, una natura difficile, un popolo meraviglioso, stranissimo, fatto da queste 300.000 persone che vivono poi in un territorio largo, mezza Italia per capirci, e di conseguenza è un territorio dove la gente si confronta con il difficile, sono minoranze che si confrontano con il difficile, dunque, come posso dire, buio, estrema luce, estremo freddo, estrema natura estrema, e di conseguenza tutto, come posso dire, diventa un po' fin da bambino una responsabilità individuale, tutti suonano uno strumento, sono dei grandi, come posso dire, scopritori di cose assurde, perciò ti capita di incontrare persone meravigliose che magari non hanno lo strumento ma iniziano a suonare le pietre, perché non c'è niente, qui si passa, come posso dire, si parla di una nazione dove sei bambino e non puoi fare niente, la palla non gira perché c'è vento, c'è solo lava, muschio, e allora capisci che è una terra estrema. A noi interessava questa terra estrema, anche se noi siamo andati perché abbiamo detto: se vogliamo andare a fare un lavoro che racconta la crisi dell'Occidente, la crisi dei valori occidentali, l'Islanda è perfetta perché è esattamente a metà strada tra l'Europa e l'America, ma soprattutto perché c'è questa frattura, questa faglia che divide l'Islanda in due, e che la cosa a livello geologico assolutamente interessante è che si divide 3 centimetri l'anno. Perciò ci piaceva l'idea di questa ferita dell'Occidente che si divide 3 centimetri l'anno. Allora abbiamo detto, se dobbiamo parlare dell'uomo, della solitudine e di tutte le difficoltà esistenziali, facciamolo sulla ferita che si apre 3 centimetri l'anno. Senti, e questo viaggio cosa vi ha portato a conoscere? Beh, questo viaggio ci ha portato appunto a fare, come dire, a trovare tutto il possibile e l'impossibile, perché, ti ripeto, trovi persone meravigliose che hanno il coraggio di essere sincere e sono anche un po' matte, detto tra di noi, perciò abbiamo incontrato scrittori, poeti, musicisti, politici, e tutti hanno questo senso della stranezza molto molto accentuato, dunque assolutamente affascinante. È chiaro che questo vale per il discorso, come posso dire, di essere persone interessanti, ma vale anche il fatto di essere persone molto problematiche. Dunque all'interno di questo documentario artistico, perché ci tengo a dire che è un documentario artistico, che significa che sovverte tutte le regole narrative, perché a dei momenti è molto più legato a una narrativa visiva, anche di montaggio estreme, di estremo, di musica abbastanza estrema. Noi veniamo dalla video art, voglio ricordare questo, dunque di conseguenza per noi certo, è molto importante l'immagine, ed è quasi più importante appunto la narrativa visiva rispetto alla narrativa letteraria. Sì. E perciò ci ha portato a incontrare queste persone che passavano da raccontarci di elfi fino a parlare con grande tranquillità davanti ai figli della necessità dell'alcolismo. Perciò bello, della necessità dell'alcolismo. Sì, sì, c'è una donna che c'è venuto che dice una cosa meravigliosa, no, davanti a sua figlia, questa poetessa dice: mi sono trovato parecchie volte a togliermi al Tampax e ballare nuda semplicemente per vedere cadere qualcosa da me che sia la mia verità, la mia interiorità. E questo lo dice di fronte alla figlia di 10 anni. Dunque capisci che stiamo parlando di... Sì. Senti, e tu ecco, come, ecco, questa mi ha colpito molto questa necessità dell'alcolismo. Sì. Spiegamela un po'. Te la spiego perché, nel senso, tu immagina che nasci in un posto dove non ci sono alberi. Certo. E allora per loro non ci sono alberi, gli alberi li vedono come le sbarre della mente. C'è un punto, a un certo punto, dove questo regista, il più grande regista islandese che ci ha aiutato in questo documentario, Freddy Thor Fredriksson, ci dice in questa intervista, dopo aver bevuto praticamente non so quanta roba, e ci dice: sai, per me gli alberi sono le sbarre della mente, io non so come fate voi con gli alberi. E l'ho trovata mica scema come frase, perché ho pensato che un po', allora, questa dimensione continua di vedere gli orizzonti larghi, no? Gli orizzonti vasti, e ovviamente fa sì che anche i tuoi pensieri diventano vasti, e allora quando diventano così vasti e così nella loro solitudine, molto spesso cadono in, come dire, in trame depressive, no? Questo lo puoi immaginare. Dunque, sì, l'alcol, sì, è, sì, un, sì, modo per avvicinarti. Beh, quindi immagino che in un posto come New York, dove non ci sono alberi ma grattacieli, morirebbe all'istante. Sì, so, assolutamente. No, ma la cosa meravigliosa è che, se chi va in Islanda lo sa, cioè lunedì, martedì, mercoledì, giovedì si spara, nessuno dice una parola, venerdì, sabato e domenica ti sembra di essere entrati in una famiglia di 300.000, dove tutte le donne più belle al mondo ti vengono addosso, ti vogliono parlare, cioè c'è un senso di veramente quasi manicheo, di bianco e nero, non so come definirlo, cioè momenti di assoluta riflessione, introspezione, a momenti invece di totale distruzione. È un popolo estremo, sì, è un popolo, sì, estremo, colto, assolutamente colto, ma estremo. Senti Nicolò, uno degli elementi che ha portato sotto i riflettori l'Islanda un po' di tempo, sì, fa, è la questione delle banche del debito. Sì, ecco, sì. Considerato un'operazione nazista a livello economico, è stato definita così. Sì. Noi l'abbiamo fatto 3 mesi prima, e questo è importante che lo dici, l'abbiamo fatto 3 mesi prima rispetto al crollo della nazione. È stato un crollo, possiamo immaginarlo, solamente immaginarlo. Consideriamo che l'Islanda è stata per anni e anni il posto dove si viveva meglio, con la maggior qualità di vita, col grande rispetto dell'ambiente, tutti belli, tutti felici, ma tutti che appena nati davano il genoma, perché ti racconto questa cosa, davano il genoma a questa società che si chiamava Decode, che era una società che prendeva finanziamenti assurdi dalle assicurazioni, dalle società americane. È stata una delle grandi crisi dell'Islanda, dove praticamente si è scoperto che poi questa Decode non faceva nient'altro che passare tutte le statistiche alle grandi società di assicurazione americane, perciò lì c'è stato il grande scandalo. E questa crisi ha investito tutti, perché la gente è passata da un benessere totale, totale intendo che ogni ragazzo aveva una macchina, una casa, un lavoro, a nulla assoluto. e dunque loro non sono abituati come noi a stare, come dire, nella disperazione, in un altro tipo di disperazione. Loro si sono trovati da un giorno all'altro a mettere il bancomat dentro e non c'erano più i soldi, dunque puoi immaginare, no? L'hanno vissuta malissimo, ma sempre con il loro rispetto, perciò le loro proteste non erano i black bloc, quattro vecchietti col cartellino con scritto vergognatevi, per loro era già una cosa assolutamente infamante, per loro era impossibile che lo Stato tradisse. Un'idea che piacerebbe a Berlusconi, questa, no? L'impossibilità dello Stato, ecco. Niccolò, che sviluppi ha avuto questa protesta in seguito? Perché ti dico una cosa, vai. C'è stato un altro documentarista che qualche anno fa si è trasferito lì in Islanda, Puglia, direttamente dalla Puglia, lo abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. Ah, che bello, non l'ho incontrato, puoi immaginare che ci trovavamo con... Vabbè, era divertente. Fa delle stagioni in Puglia per la raccolta dell'olio e poi si muove comunque in Islanda, e però rispetto alla sorta di esempio che è stata l'Islanda di mobilitazione popolare, lui però, in questo faccio l'avvocato del diavolo, smitizzava un po' questa cosa, nel senso diceva che in fondo comunque nella gente non c'è tutta questa consapevolezza e non ha avuto poi tutti questi effetti la mobilitazione. Ora non so tu invece come l'hai visto. No, io sono d'accordo, ma infatti quello che volevo dire prima, per loro è stata una rivoluzione che per noi non ce ne saremmo neanche accorti, nel senso che loro sono stati scioccati da questo tradimento dello Stato, ma poi fondamentalmente si sono messi a fare, sono in 300.000, dunque sono in nulla, si sono messi a fare gruppo e a fare questi piccoli focolaio di proteste, che in verità è sfociato in cambi strategici dei loro governi, però non è che se tu vai adesso in Islanda dici vedi questo effetto della crisi e questa grande, la corona è sempre un po' matta, nel senso che va su e giù, passa un giorno è una cosa, un giorno dopo è l'altra, è un paese... Instabile ma meraviglioso, nel senso che è innegabile che un regista, io dico, ma un regista, ma un artista in generale, quando si trova di fronte a un certo tipo di, come posso dirti, di scenario, io mi ricordo una volta, eravamo ad agosto, io e Aldo Nove, che era venuto con me in Islanda, e ci siamo trovati a un certo punto in mezzo alla nebbia, quando arriveremo a Reykjavik? La risposta di un vecchietto che passava è, non lo so, probabilmente, cioè 6 ore o 10 ore, dipende dalla nebbia. Allora, tu capisci che questa cosa fa sì che quel paese sia assolutamente affascinante. Certo. Sì. Dicevi? No, dicevo che dunque è stato divertente presentarla a Venezia, quando abbiamo presentato noi eravamo all'aperto lì alla pagoda, c'era un tempo infernale, perciò tutti in magliette, tutti che avevano freddissimo, e allora ho detto, vedi che a volte sembra che le cose non sai perché si vanno a mettere insieme nel momento giusto proprio, vabbè. Senti, e tra là dove sarà possibile goderne? Ci chiedono in tanti. Allora, adesso andrà a Reykjavik, e a Reykjavik credo che succederà abbastanza un casino, perché in verità noi dentro abbiamo, come interviste, abbiamo dei personaggi veramente fastidiosi per loro, tra cui questo Kauri Stefansson, che era il proprietario di questa Decode, che per loro è un criminale, stiamo parlando di uno considerato dal Time uno dei 100 uomini più pericolosi, bisogna immaginare. E dunque di conseguenza succederà, credo, un po' un bel casino, ma credo che sia utile, perché sai, è bello vedere la visione del tuo paese fatta da persone che vengono da fuori. Non so perché, ma credo che quando tu vedi le cose, non sei di quella nazione, vedi le cose in maniera totalmente, come dire, meno condizionata. Dunque puoi raccontare delle cose che loro magari non sono in grado di raccontare. Dunque andrà a Reykjavik e poi altri film festival, ovviamente. Poi se la distribuzione di un progetto del genere è talmente, come posso dire, particolare, che non credo che possa andare sui circuiti televisivi, non sarà contento Davide Ferrario, che è il produttore, che dico questa cosa qua, però realisticamente lo vedo molto bene, hai capito, nelle sezioni ultra sperimentali dei film festival. Va bene, magari avremo modo di risentirci per nuovi progetti. Vi chiamo dall'Islanda, scusa, quando siamo in Islanda, quando siamo a Reykjavik ti racconto tutte le condizioni. Meglio ancora, sì. Grazie. Allora un abbraccio, a presto. Grazie. Ciao Nicolò. Ciao. Bene, Masbedo, questo nome collettivo di due registi che hanno questo nome artistico, che a Venezia hanno presentato Tralala, questo loro lavoro di due artisti provenienti appunto dalla videoarte. È tutto per quanto riguarda Visionari di quest'oggi, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre giovedì a partire dalle 14 fino alle 15. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi le trovate sul sito della radio, sito internet della radio, www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 7 settembre, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia e il link per riascoltare la puntata precedente e le puntate del 2012. Finisco con i nostri riferimenti per la posta elettronica. L'indirizzo è visionari@ondarossa.info. Per inviarci sms in diretta il numero è 342 35 74 357. Buon proseguimento.